Buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo un ultimo saluto al grande Seth Walker, che esattamente 2 giorni fa ci ha lasciato. Un grande pioniere dell'NBA dei tempi che furono. Buongiorno a tutti. Classe 1940 ci saluta Chet Walker, scomparso esattamente l'8 giugno ovviamente 2024. Un'ala piccola, un giocatore importante, un giocatore che tra le principali squadre, tra cui gli attuali Los Angeles Clippers, ma Buffalo Braves al tempo, è stato protagonista in una maniera assolutamente molto molto incisiva. Ha vinto un campionato NBA con i Philadelphia 76ers nel 1967. Sì, un pioniere, che possa riposare in pace Chet Walker. Grazie per questa palla 2 che arriva nel parquet celeste, portata da Paolo Onofri. Che ricordi? Ricordi che arrivano anche in tempi più recenti. Io c'ero, 1992, Reggio Emilia, si parla di questioni e affari di famiglia. Ringrazio anche Gianluca per il messaggio che arriva puntuale. Io c'ero a cantare po po po po po po po Teoman Ali Begovic, partita importante di spareggio per la Fortitudo Bologna, un Sean Bandiver che non ce la può fare nonostante il talento, purtroppo fisicamente inadeguato, infortunato, lascia spazio al semi sconosciuto Teoman Ali Begovic, un 4 con una mano morbidissima, una tecnica eccellente, una voglia di far bene, e saranno 28 punti in 40 minuti appena arrivato in Italia, e porta la salvezza, la Fortitudo, in una stagione quanto mai difficile. Ne approfitta per scrivere Gianluca: oltre ai fratelli tristi, parlate anche dei figli un po' fetenti, anche perché io non ero al corrente, però i tifosi Fortitudo mi hanno raccontato del figlio di Ali Begovic, che fra l'altro, oltre ad aver portato una sconfitta alla squadra di papà Teoman, ha anche dichiarato una simpatia virtussina, quindi una legge del contrappasso incredibile. Però mi hanno detto che il figlio di Ali Begovic, Amar Ali Begovic, sia un giocatore eccezionale. Chiedo una recensione al nostro Paolo Onofri. Io sinceramente non l'ho mai visto giocare. Alcune fischiate arbitrali ai danni della Fortitudo, che nell'ultima parte di stagione ha avuto tanto cuore, il cuore della F scudata, che ben conoscete e conosciamo. Di affari di famiglia all'interno della F scudata sarà appunto la nostra partenza, anzi già lo è stata con Ali Begovic. Per me Teoman comunque resta un giocatore veramente incredibile, un giocatore fortissimo, un underdog, un sottovalutato, giocatore non solo bello da vedere ma anche assolutamente molto molto concreto. Torneremo a parlare di fratelli famosi, e beh già, non importa che stia a anticipare, quando parlo di fratelli famosi in casa Fortitudo, già, è intuibile chi saranno i protagonisti. Intanto Sly and the Family Stone ci raccontano di Family Affair, a tra poco con il Mood Groove di oggi. Sono affari di famiglia, a tra poco. Amar Ali Begovic, una serpe in seno, dopo aver giocato in Virtus, punisce con i suoi Trapani Sharks la Fortitudo Bologna per la promozione in Serie A. See it's in the blood. Both kids are good and bound. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Yeah, family affair. Famiglia a Bologna, beh, i fratelli Douglas erano tra l'altro nella Fortitudo in cui ho portato, per così dire, la borsa, l'acqua, dato supporto come juniores nella metà degli anni 80. John e Leon Douglas, il portaborse, il dodicesimo, di solito è addetto a queste mansioni molto umili, ma posso assicurare, onoratissimo di tutto ciò. Allora, partiamo da John Douglas, che arriva 83-84. John Douglas è giocatore folletto immarcabile, con delle capacità di realizzazione molto importanti. È un portatore di palla realizzatore, ha garretti di caucciù, ha delle gambe veramente inarrestabili, una partenza incrociata inarrestabile, un palleggio arresto e tiro in avvicinamento a canestro con questa sospensione atipica. Anzi, sinceramente, io questa modalità di tiro non l'ho mai vista, anzi non è che l'abbia vista così di frequente. Devo pensarci, per una sospensione eseguita in tal modo. Beh, è una sospensione che arriva a dei livelli molto alti e quindi l'avversario può arrivare a questi livelli, a queste altezze. C'è un problema: che John Douglas si fermava in aria come sospeso. Come faceva non ve lo so spiegare, però aveva questa capacità di lievitare, dopodiché restare sospeso quel mezzo secondo, l'avversario tornava giù e lui restava quel mezzo secondo sospeso e riusciva ad andare in conclusione al tiro. Grande realizzatore, giocatore per il suo ruolo, solista, anche se magari la capacità di poter passare palla e intuire il gioco indubbiamente non sarebbe stato male, ma poi si pretende troppo. Velocissimo, atleta incredibile, cambi di velocità e progressioni inarrestabili, un realizzatore, un giocatore da quel punto di vista lì completo dalla parte offensiva del parquet. Quello che manca, secondo me, è sempre stata una capacità di portare i compagni con una visione di gioco più totale. Però vi posso dire questo, avendo conosciuto personalmente John Douglas: una persona eccezionale, una persona da spogliatoio veramente incredibile per quanto riguarda l'aggregazione, per essere vicino ai più giovani. Addirittura a metà allenamento era quello che ti veniva incontro e dava consiglio per eseguire il tiro, per eseguire lo schema, per eseguire quel movimento. Dal punto di vista dell'umanità, John Douglas, uno dei numeri uno che ho conosciuto sul parquet. Arriva con tale Earl Williams, un pazzo scatenato, 1,98 sarà stato questo omone, di una cattiveria, di un indisciplinato, di tutto e di più. Ha rischiato più volte il taglio, lui rimbalzista veramente molto efficace, picchiatore, indisciplinato, finisce la stagione vincendo la classifica rimbalzisti della Serie A2, ma ha portato dal punto di vista comportamentale, vi posso assicurare, tantissimi problemi. L'anno successivo sarà l'anno del mio arrivo in Fortitudo, così per dare una cronologia dei tempi, arriverà anche il fratello, sarà tagliato Earl Williams, beh, è ingestibile, e arriverà Leon Douglas, il fratello di John, a tutt'altra carriera. John Douglas, ball handling alla Isaiah Thomas e la capacità di stare in aria alla Michael Jordan, un hand time clamoroso, buono come il pane. Beh, due parole ancora su John. Lui ha giocato nei San Diego Clippers in NBA per un paio di stagioni e ha fatto buone cose. Altro stampo Leon Douglas, non certo un grande atleta, forse saltava sì e no la Gazzetta dello Sport, molto severo, per quanto Leone, grande cuore, grande tifo, tutto per lui, il famoso numero 13 della F studata, il Leone, le scritte in via San Felice o Moses Malone o resti il Leone. Leone era un buon sparring partner nell'NBA. Pensate che ha giocato anche da backup per Detroit, poi andò a Kansas City. Ha un passato NBA di più lustro rispetto al fratello, forse, anzi probabilmente, perché 2,8-2,9, con una capacità disciplinata in questo caso tutt'altro genere rispetto a Earl Williams. Una lettura di gioco, se vogliamo anche un playmaker d'area. Le sue conclusioni nella parte offensiva di gioco lasciavano un po' a desiderare, ma la sicurezza che un giocatore come Leon Douglas può portare indubbiamente è essenziale. Tutti ne hanno un buon ricordo di Leon Douglas. Sono affari di famiglia, sì, la coppia John e Leon Douglas ha lasciato grandissimo ricordo a Bologna e non si può parlare di buono o tristo, si può parlare piuttosto del Douglas grande e il Douglas piccolo, ecco. Però entrambi sono stati atleti fondamentali che hanno lasciato buone cose oltreoceano e con l'arrivo in Europa hanno dato una forza ulteriore nel periodo di vero basket a una Fortitudo in difficoltà. La squadra ascensore che faceva una stagione in A1, una stagione in A2 e via discorrendo. Importanti personalità per i più giovani, tecnicamente Leon Douglas comunque scolasticamente parlando aveva la capacità di movimento, la mano quadra, questo ve lo posso assicurare, per la Serie A una mano decisamente quadra. Ciò non toglie che ha portato rimbalzi, presenza, difesa, grande motivo di unità e cuore all'interno della formazione di via San Felice nella metà e fine degli anni 80. John e Leon Douglas hanno aperto la nostra playlist e i fratelli Telly Hit aprono la playlist in musica. non nemmeno ricordo per la prima volta come cambio di Sam Lacy in quei sì. Kansas City Kings che approdarono anche alla Western Conference Finals dell'81, vada memoria. Leone sapeva il fatto suo, un mestierante, ma che sapeva anche giocare a basket, ottima tecnica, fisico. Io lo reputo tra i primi 5 pivot della storia della Fortitudo Bologna, un signor giocatore. Basso Percy Heath insieme ai fratelli in questa formazione particolare che dà uno sguardo, come avete sentito, anche alle sonorità di Pat Metheny, oltre che Gary Barton e The Heath Brothers, questo disco di cui io sono gelosissimo, fra l'altro. Per completare la formazione, Percy Heath, che è stato contrabbassista anche nei Modern Jazz Quartet, fratello del sassofonista Jimmy Heath e del batterista Albert Heath, con cui formò gli Heath Brothers, che stiamo ascoltando a fianco di Pat Metheny. Pensate che Leone in Italia fece qualche apparizione anche nella Reier Venezia in A2, dove portò un contributo notevole anche dal punto di vista offensivo, e per quello che una volta arrivato poi a Bologna le prime partite ha stentato a portarsi nella parte offensiva del parquet e ottenere risultati concreti e incisivi. Col tempo, certamente con l'esperienza e la tecnica di un giocatore importante, e soprattutto, ecco la parola giusta, il carisma e la sicurezza. E quando si dice un fratello tristo, bene, parliamo nella seconda parte con due protagonisti rispettivamente: Albert King, fratello di Bernard King, e Gerald Wilkins, il fratello di Dominic Wilkins. Qui, per quanto riguarda Gerald Wilkins, ma anche per Albert King, sicuramente ci sarà da remoto un contributo da Paolo Onofri, perché so che è informato sui fatti per quanto riguarda questi due fratelli tristi nel nostro Starting Five odierno al Breakfast Club nel Move to Groove. A tra poco. Thank you.

Nat Adderley, trombettista. Per me non poi così tristo, come vi ho già detto molte volte, questo peso sulle spalle del fratello minore diventa poi importante, è una sorta di tara che lo accompagna per tutta la carriera. Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley, ha portato nell'hard bop e nella blue note delle note assolutamente importanti. Certo, è un gigante del contralto, ci mancherebbe. Un po' bullizzava il fratello alla composizione di The Work Song. Julian Cannonball disse: ma come, un pezzo così bello? Nat, sei sicuro di averlo scritto tu? Sì, l'ha scritto il fratello, Nat Adderley. Invece, per par condicio, ho messo un pezzo di Joe Zawinul, ci sono entrambi al contralto Cannonball e alla tromba Nat. Il pezzo è Mercy, Mercy, Mercy di Joe Zawinul. Io non ho fratelli, quindi né fratelli né sorelle, per fortuna forse, oppure no, chi lo sa, comunque tant'è. Ma avere il fratello maggiore che ha portato un contributo importante in una disciplina sportiva o nello studio diventa poi un motivo di difficoltà per il fratello che a volte in maniera molto cattiva noi definiamo il fratello tristo. Beh, io sono per i fratelli tristi, vi dico la verità. Li sostengo, li apprezzo, li incito. Albert King è stato un giocatore ai tempi del college veramente forte, fortissimo. Del resto è fratello di Bernard King, che è stato nel mio personalissimo Dream Team uno dei 12 titolari, una delle ali piccole più forti in assoluto di tutti i tempi. Il nostro Paolo ne sa qualcosa con i suoi New York Knicks. E per quanto riguarda Albert, ai tempi del college pensate che addirittura era quasi più titolato, anche se la differenza fra di loro esattamente di 4 anni ha portato più volte, oltre che per lo stesso ruolo in campo, due ali piccole un po' diverse fra di loro. Bernard King più fisico, Albert King magari la giocava di più su una sorta di uno contro uno e tiro dalla distanza, ma in maniera assolutamente capace. Arrivò in Italia. Il mio incontro con Albert King fu veramente, secondo me, poetico. Il mio incontro, io ero tra il pubblico, lui arrivò a Milano. Un signore arriva in Piazza Zarita e chiaramente è appena arrivato, appena sceso dall'aereo, è nell'Olimpia a Milano e quindi ne approfitta, non aveva neanche le scarpe con sé, la società le porta e inizia addirittura prima della ruota in tuta, inizia a fare qualche giro di campo e a tirare. Si ferma sotto la fossa dei leoni per prendersi qualche tiro. Una pioggia di fischi, un boato, un'accoglienza veramente non certo ospitale. Che fa? Lui sorride perché non capisce, dice: perché fanno così? Lui è abituato nella NBA che non esistono queste manifestazioni, quindi rimane un po' così, un po' interdetto. Poi che fa? Inizia a sorridere. Lui ha una gran mano, una capacità offensiva molto incisiva. Per me lui è un giocatore fortissimo, lo ricordiamo nei New Jersey Nets, è stato un giocatore molto molto capace. Non è certo ai livelli del fratello, ma ciò non toglie che la mia simpatia è arrivata ad Albert King comunque. A Milano vince anche uno scudetto in maniera un po' così rocambolesca, comunque porta un contributo importante. La sua prima partita chiuse con 17 punti giocando metà partita, lo ricordo ancora. La conclusione di quello strano riscaldamento fu che lui giustamente conclude in lunetta portando un esercizio ai tiri liberi, praticamente sotto il tifo Fortitudo, che ogni tiro libero, come se fosse una partita, lo metteva in difficoltà. Non so, lui ha fatto 8 su 10 e quei due sbagliati, c'è stato il boato assoluto. Quando ha concluso l'esercizio dei tiri liberi, lui ha lasciato la palla, si è voltato verso i tifosi e ha salutato con un sorriso. Beh, onore al merito alla Fossa dei Leoni, che ha risposto con un calorosissimo applauso di benvenuto. Dai, mi ha fatto piacere questo atteggiamento sportivo. Fratelli scarsi sicuramente non gli dà merito, il guaio che i fratelli buoni, ossia Dominique e Bernard, erano veramente troppo forti, due macchine da canestro, uno con la tecnica Bernard, l'altro con l'esplosività e la potenza Dominique. E il guaio che purtroppo erano buoni anche i fratelli, perché Albert, anche secondo quando me venne in Italia, secondo me è stato uno degli stranieri giocatori con la più grande tecnica che abbia mai visto dal vivo. Questo fa capire che la famiglia King a basket ci sapeva giocare. E quando invece riguardo invece Gerard è il prototipo del giocatore di basket, punti nelle mani, ha una media punti in carriera sui 14-15 a partita, si sacrificava in difesa prendendo l'esterno più pericoloso della squadra avversaria, non a caso per un periodo era considerato il Jordan Stopper, uno dei migliori a marcare Michael Jordan, che per molti ai tempi doveva essere il miglior giocatore della Lega. Un signor giocatore, New York, Cleveland, sempre in quintetto base. Secondo me i Knicks lo sacrificarono troppo presto per promuovere Starks in quintetto. Io me lo sarei tenuto, Gerard. Beh, come ti ho detto, Paolo, ti ringrazio intanto per questo contributo da remoto. Aspettiamo anche i vostri in questi ultimi minuti al 333-180-9494. Anche a me piaceva tantissimo Gerald Wilkins. Secondo me c'era qualche problemino comportamentale. Penso che abbia avuto qualche problema personale non indifferente. Ma il peso di essere i fratelli minori rispetto a questi grandi giganti è un po' una parte del gioco da tenere in considerazione. Ciò non toglie il nostro incoraggiamento, almeno ai tempi. Certo che anche nell'arte abbiamo questo riflesso, anche nella vita se vogliamo, questo motivo di comparazione che resta in famiglia, che però mette un po' in difficoltà, se vogliamo. Ad esempio, a proposito di un grande sassofonista e per me anche un ottimo trombettista, stiamo parlando dei Brecker Brothers. stata la famiglia più presente nella NBA? Vediamo un po'. Vi dico qualche nome: Wilbur Jones, Caldwell Jones, Major Jones, Charles Jones, quattro fratelli. Vorrei chiudere questa rassegna di famiglia. Ecco, loro non hanno avuto problemi tra di loro, chi è più buono, chi è più forte, chi ha giocato di più. Beh, indubbiamente il povero Caldwell Jones, secondo me, è stato quello più incisivo, però anche gli altri tra ABA ed NBA hanno dato un contributo assolutamente molto importante. Beh, diciamo che è stata una famiglia legata al basket professionistico americano. Penso sia una sorta di record, quattro fratelli. Nel ruolo di ala forte e centro, il mio preferito era Caldwell Jones, però insomma militava nei Philadelphia 76ers, ma non solo, un backup center molto, era di quei backup center, scusate, che alla fine giocava sempre lui da titolare, gran stoppatore. Insomma, così è conclusa la nostra formazione di famiglia con uno speciale evidenziatore sui fratelli minori. Per quanto riguarda la playlist, ancora con The Brecker Brothers, Michael Brecker al sax tenore, Randy Brecker alla tromba. Concludiamo così il Move to Groove di oggi. Domani il voltiamo pagina libri a colazione, quindi vi saluto ricordando il 333-180-9494. Ringrazio il contributo da remoto di Paolo Onofri, lascio la linea all'Edipo Enciclopedia, dico poi liberi dentro e dopo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi raccomando, l'imprevedibile martedì vi porta anche il vinile della settimana, con Andrea Gozza, che ringrazio per l'assistenza tecnica in mattinata a proposito della ricezione di SMS e WhatsApp. Domani voltiamo pagina e alle ore 7 puntuale il Breakfast Club. Dal vostro William Piana un caloroso abbraccio e un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani!